Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22 in punto, buonasera carissimi ascoltatori, buonasera da Blu Radio Veneto, da Gilles Facchinelli, da Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Gil, buonasera ai nostri ascoltatori. Sempre una bella emozione quando si apre sto microfono e si va in onda. Eh sì, perché si va in onda live, la musica è sempre emozione, sempre. Allora, questa sera Maurizio, altra serata speciale, vogliamo in quella terra d'Abruzzo. Parliamo di mare, di montagne, è una amatissima terra per molti. Allora, questa sera molto acustico, chitarra acustica, parleremo anche un po' di questo finger picking. Vogliamo presentarlo innanzitutto, Maurizio. Buonasera e benvenuto tra gli amici di Blu Radio Veneto ad Adriano Tarullo. Buonasera a tutti gli buonasera, amici. Buonasera Adriano. Anche a te Maurizio, buonasera. Grazie di essere venuto e di presentare il tuo progetto, la tua musica, la tua voglia di blues, tra virgolette. Sì. È una voglia di blues, anche quella, blues, la voglia di blues è una bella cosa. Beh, il blues è l'anima, e quindi lo devi sentire dentro, poi è un gran piacere a volerlo anche diffondere. Esternare, sì, esattamente, diffondere. Quattro album all'attivo, caro Adriano, di cui tre in dialetto e uno in lingua italiana. Di cui uno molto importante, in cui raccoglievi le storie del 1900, degli anni del Novecento, abruzzesi, storie popolari, eccetera. E i primi due album erano perfettamente inediti. Come mai questo ricercare le tradizioni abruzzesi col dialetto? Perché ieri sera, scusami se ti interrompo, è venuto un cantatore triestino che ha fatto un'operazione di quel genere, anche lui, cantava in triestino. Colorava il dialetto triestino, è molto vicino al dialetto veneto, sì. E colorava parlando, cantando in triestino. Tu stasera canti in italiano, però le tue vicende musicali partono dal dialetto abruzzese. Meglio chiamarlo dialetto o lingua, perché so che tanti preferiscono lingua. Cosa dici Adriano? Ma io tranquillamente dialetto, anche se poi è una lingua, cioè anche l'italiano poi è un dialetto. Prima era il dialetto, sì. Era un dialetto. È un dialetto, sì, esatto. È diventata la lingua italiana. Esattamente. Ma diciamo che io parlo in dialetto, appunto, in dialetto abruzzese, in dialetto del mio paese, e quindi canto anche in dialetto. Parlo in italiano e canto in italiano. Questo che mi spinge poi a cantare in dialetto. Per quanto riguarda poi la riscoperta di brani tradizionali, è un percorso del terzo album questo qua, sì del terzo, perché i primi due possiamo dire i titoli degli album. Allora, il primo album si chiama Such Way Blues, che è una risposta che mi diede mio padre, perché gli ho detto, mio padre è anziano, gli dissi: papà, secondo te che cos'è il blues? E lui mi rispose proprio: ma Such ne so io, che ne so io che cos'è il blues. E ho detto: bravo papà, mi ha dato l'idea per il titolo dell'album. Bene. Poi il secondo album si chiama Spartenze, e la spartenza è il distacco dei pastori abruzzesi quando partivano per andare in transumanza per le Puglie. Uh-huh. E c'è un parallelismo nell'album con i vecchi pastori che partivano appunto per andare in transumanza con i giovani, i nuovi pastori, quelli che sono costretti ad andare via dalla regione, dal proprio paese, via lontano, per cercare lavoro. Certo. E il terzo album si chiama Io voglio bene a nonnata, cioè Io voglio bene a tua nonna, che è poi il titolo di una canzone di un autore dei primi anni del Novecento che ha scritto anche Vola vola vola, che è forse la canzone più conosciuta in Abruzzo. Il progetto era proprio quello, cioè reinterpretare brani sia tradizionali, quindi non trascritti, tramandati oralmente, e sia brani appunto più folcloristici dei primi anni del Novecento di autori. Ma in veste moderna però. Sì, assolutamente. Cioè non erano assolutamente in forma tradizionale. Abbiamo associato a questi canti generi musicali diversi, tra cui lo swing, il blues, la bossa nova. L'album inizia con con dei canti armonici che molto tibetani, fanno molto Tibet, che hanno poco a che vedere. Oddio, però, nelle montagne abruzzesi. C'è un collegamento ideale, chiaramente. E quindi sei arrivato a questo quarto album, album in italiano, assolutamente, canzoni tutti in italiano, con qualche eccezione, però in generale in italiano praticamente. Diciamo che per la maggior parte in italiano, però non è stato assolutamente lasciato il percorso iniziato precedentemente, perché ci sono tre rivisitazioni sempre di canti tradizionali e nelle canzoni in italiano c'è anche qualche termine dialettale. Quindi non è stato dimenticato il percorso che hai fatto, anzi è stato recepito in una chiave diversa praticamente. Sì, c'era la necessità di affrontare alcuni argomenti, di portare un'idea, di farla arrivare a un maggior numero di persone, e quindi c'è stata la mia volontà di cantare anche in italiano. Caro Gil, cosa dici? Per portare l'argomento a un maggior numero di persone facciamo sentire qualcosa? Io direi di sì, partiamo con dal CD, non con un live, giusto? Dal disco, esattamente. Allora, anche questa è un mista appunto dialettale italiano, no? Parliamo di suonerò tutta la notte. Diciamo due parole su questa canzone prima di ascoltarla. Beh, suonerò tutta la notte, già lo dice nel titolo. Spesso si parla del sabato sera, no? Che cosa fare il sabato sera? Andarsi a ubriacare in un pub, andare a ballare in discoteca, buttare i sassi dal cavalcavia. Allora, tra queste opzioni ho scelto di suonare tutta la notte, e credo che ogni medico dovrebbe prescrivere questa medicina per tutti quanti. Quindi suonerà tutta la notte. Sera la vedo proprio nera, mi devo liberare dallo stress post feriale. Con noia, con facciando ai ai nella sacce, chiama qualche duna, ma non so cosci se cura. Potrei sangue nelle mani. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Rieccoci nuovamente in diretta con Adriano Tarullo, questa sera qui con noi per presentarci questo suo ultimo album, Anch'io voglio la mia auto blues. Però, carissimo Adriano, noi volevamo anche ringraziare una persona particolare che è Gino l'ascoltautore. Sì. E speriamo sia in ascolto perché ha collaborato anche lui per realizzare questa intervista. Grande. Quindi Gino. Ne approfittiamo per salutarlo. Un grandissimo abbraccio, Gino, da tutta l'equipe di Blu Radio Veneto. Lo ringrazio anch'io per avermi fatto conoscere. Sì, molto bravo Gino, è uno scopritore, cerca di sentire, di dare una mano, ecco. Certo. Una cosa molto bella. Anche molti suggerimenti. Molti suggerimenti. Sì, sì, sì. Che suggerimento possiamo dire di questo pezzo? È un blues, c'è poco da fare. Come lo definisci? Non lo so, però c'è qualcosa di blues. Il blues c'è come matrice, e poi c'è una tua... timbro blues. Direi più una tua accelerazione. Forse c'è più blues in qualche altro brano. Sì, sì, sicuramente. Il titolo è Anch'io voglio la mia auto blues, però non è un album di blues cioè, ortodosso. Non ci sono tutti i brani blues, del genere blues. Blues è inteso più come anima, no? Come anima. Esattamente. Però qualche brano è veramente blues, poi sì. Ascolteremo qualcosa. Sì, certamente. E una cosa che mi ha detto Adriano Gil mentre il pezzo andava, in questo pezzo, solo in questo pezzo, lui ha suonato tutte le chitarre. È una bella cosa. Adesso mi elenchi tutte le chitarre che hai suonato in questo pezzo. Allora, qui c'è una... una serie di cose poi che tu hai attaccato, hai registrato. Sì, chiaramente ho suonato in sovraincisione. Mm-hmm. Inizialmente con una chitarra acustica e voce. Qui c'era un'accordatura non proprio standard, cioè un sol l'ho portato in mi. E quindi mi dava delle sonorità anche un po' particolari. E poi ho sovrainciso una chitarra resofonica. Spieghiamo per chi non è addetti ai lavori che cos'è una chitarra resofonica. È una chitarra solitamente in metallo. Esattamente, non in legno, che ha proprio visivamente un bel vedere, assolutamente sì, un bel vedere. Stasera non l'abbiamo, che è una chitarra acustica normale. Però se avessi portato la chitarra resofonica, sarebbe stato un po' pesante, francamente. Vabbè. C'è anche la chitarra resofonica, che è poi quella che ho io, un po' in legno con una borchia di metallo. Bella, che, molto che, bella. Che io preferisco perché mi piace molto il suono del legno. E la chitarra resofonica poi è molto blues, usata dai bluesman, e viene usata anche perché dava questo volume maggiore. Certo. Poi nel brano ho suonato un bouzouki greco. Bene. Che è uno degli ultimi acquisti, veramente da delle sonorità veramente accattivanti. E ho suonato il basso e anche ho giostrato dei loop di batteria. Quindi la batteria non è suonata da un musicista, però in realtà sono batterie suonate in degli studi professionali e io hai utilizzato. Sì, ho fatto un quindi po' di editing. Certo. Quindi non ti sei fatto mancare nulla. No. E in più, aspetta, c'è mica anche finito, C'è un mandolino suonato da Alfredo Serafini, che è un musicista che partecipa spesso sia nei live che negli album precedenti. Ah, le tue performance. Sì, sì, sì, sì. Benissimo. Ecco, diciamo anche un'altra cosa, Maurizio. Sì. Sicuramente non è una tecnica nuova, ma Adriano usa il finger picking. Lo sentiremo anche in diretta. Sì, finger picking. Finger picking è diciamo una tecnica mediante il quale viene utilizzato il pollice che fa un po' da basso, no? Uh-huh. E mentre le altre dita o fanno la melodia o l'accompagnamento del brano. Certo. È molto piacevole. Sì, in America c'è un'etichetta famosa, la Tacoma Records, che incide tutti i musicisti della Tacoma Records incidevano in finger picking. Sì. Poi io preferisco molto i songwriter americani. Mm. E quindi sono molto legato a quel mondo. A quel genere musicale. E lì lo sentiamo comunque. Sì, e quando prendo magari la chitarra elettrica sono un po' più blues. Ecco, vedi. Lì me ne vado a braccetto. Insomma, musicalmente il blues va sempre a braccetto con tutto, secondo me. Non c'è problemi di comunanza. No, il blues è libero. È un linguaggio abbastanza semplice. Sì. Ma ha saputo suonare. Devi saperlo suonare, esattamente. Devi sentirlo dentro, perché altrimenti fai un blusaccio. Senti Adriano, che ambizioni hai su questo CD? Ma io lo reputo sempre un CD di passaggio. La mia ambizione sarebbe fare questo mestiere dignitosamente. E penso che questo sia un passaggio. Ancora un passaggio per arrivare a fare il cantautore dignitosamente. Cioè non è sicuramente un punto d'arrivo. Certo. Sì, no, la domanda non è casuale, perché ascoltando il tuo CD è veramente è piacevole. Non è... Grazie. Come possiamo dire il termine, Maurizio, aiutami. Sì, non è... Cioè piacevole nel senso... Piacevole costruito, cioè sì, fatto in una certa maniera, non buttato così. No, assolutamente. Cioè, a me piace, cioè, mi interessa perché molto. Ti appassiona, ecco. Sì, un piacere che fa passione. Mi appassiona, anche se non arrivo da nessuna parte. Non è detto. Non è detto. Non è mai detto questo. È il piacere che poi mi porta a fare un album di canzoni. E il piacere anche di suonare. E quindi mi piace arrangiare il pezzo e studiare il pezzo fino in fondo. Certo, di interpretarlo, di costruirlo. Sì, assolutamente. Stasera suoni, è un piacere anche questo, a sentirti chiaramente. Oh, benissimo. È una bella sfida. Suonare è sempre una sfida, secondo me, Adriano. È una sfida che deve essere vinta. Se un musicista deve suonare, se poco da fare. Soprattutto in questo momento storico, è davvero una bella sfida suonare. Sì. E a proposito di suonare, Maurizio? Adesso lo facciamo suonare, chiaramente. Cosa, Adriano? Allora, io farei il primo brano, che si chiama Felice a pagamento. Benissimo. Magari lo suono e poi... Sì, poi lo spiega. Anche perché c'è una curiosità su questo titolo, con questa P tra parentesi. Sì. Un lavoro stretto e pochi soldi nel cassetto. Tanti sogni da disfare, conservati nel tuo letto. Un'auto da pagare perché al lavoro devi andare. Un lavoro da scontare perché in auto devi andare. Un'offerta eccezionale nel discount alimentare. Col caffè la mattina, merendina made in Cina. Nell'aperitivo sai quel chiosco nelle Hawaii, farai grandi progetti che non realizzerai mai. Com'è che c'hai il tormento dentro? Perché ti chiederai questa felicità a rate a stento la prendo, dove stai sbagliando? Eppure c'hai tu il telecomando, comando, ma il fine settimana dai, siamo liberi, siamo vivi più che mai. Come insieme ci si sente ad essere liberi per sempre. Le ferie d'agosto sono finite, mi hai risposto. Ti lamenti col collega degli sprechi in Parlamento. Quei politici allo stadio aumentano l'abbonamento. Se indietro io tornassi, conterei bene i miei passi. Se indietro tornerei, il congiuntivo userei. Lei si vuol sposare, lei è in cerca dei tuoi guai. Vuole aprire un mutuo in banca che pagar non finirai. Mai, mai, mai, mai. Com'è che c'ha il tormento dentro? Perché ti chiederai questa felicità a rate a stento. La prendo dove stai sbagliando. Eppure c'hai tu il telecomando, comando, ma il fine settimana dai, siamo liberi, siamo vivi più che mai, lai, lai, lai, lai, lai. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Volevo ricordare un'altra cosa importante, Maurizio. Sì. Se qualcuno volesse interagire un po' con noi, può farlo tramite la pagina Facebook di Blu Radio Veneto, Rock Wave. E pubblicare i post che poi leggeremo anche in diretta. Hai visto quando cantava Adriano, così adesso è live, quando cantava proprio con sorriso, con... Certamente, decisamente. Poi ho visto che è molto bravo a suonare la chitarra Adriano, colora il pezzo. E poi hai citato un verso, merendine made in Cina, sì. O in China. E qui si parla di globalizzazione. Tu hai quando ti hanno intervistato, hai parlato di globalizzazione in una certa maniera. Visto che ci siamo, made in India, made in China, anche quello è globalizzazione. È un discorso abbastanza lunghetto. Beh, sì, siamo in radio, possiamo, sì, possiamo dipanarlo. In ogni caso questo è il primo singolo del disco. Sì, è il primo singolo, c'è anche un videoclip che ho realizzato. Che sicuramente avrà visto, sì, Gil, sicuramente. Sì. Sì. E mi ha aiutato il mio amico Christian Di Croce. E, allora, il brano si chiama Felice a pagamento. Con due P. Invece sono due P, una l'ho messa tra parentesi. Esattamente. In modo tale che un'unica espressione avesse due significati, cioè il felice a pagamento, che è un po' quella felicità effimera quando si compra qualcosa in questa società dei consumi che spesso ci suggeriscono di andare a trovare quel tipo di felicità, e mentre dall'altra parte un felice a pagamento che è una ricerca più sofisticata, ecco, più a lungo termine. E in questa canzone cerco di esprimere un po' un tema che poi lega diverse canzoni dell'album, che è la libertà individuale. Libertà individuale, spesso viviamo, ecco, in una cultura dove ci viene proposto un modello di vita che si rifà al modello consumistico, dove io devo essere qualcuno nel momento in cui compro, ho possesso di qualcosa. Cioè io sono migliore di te perché ho determinate cose, quindi sono all'altezza, migliore di te. Questo sviluppa sviluppa un certo sentimento che è l'invidia, che di certo non è che sia un sentimento che alimenta un benessere all'interno di una collettività, piuttosto la destabilizza, insomma. E niente, questi sono i messaggi che purtroppo continuamente ci arrivano dai grossi network commerciali. La stessa Rai che la televisione di Stato si è allineata ai grossi network commerciali, e gli stessi conduttori delle trasmissioni televisive fanno da testimonial poi agli sponsor che sorreggono le reti, e ci ritroviamo con questi tipi di messaggi in cui tu devi essere migliore di qualcun altro. E che cosa porta? Una società in cui non c'è una reale felicità. Se ci guardiamo attorno, io non vedo poca felicità, anzi dai dati statistici vedo un alto consumo di antidepressivi, medicinali contro l'ansia, la depressione. Quindi ritengo che sia opportuno cercare una felicità altrove, riscoprire un altro tipo di libertà individuale. Certo, è giusto questo. E riscoprire le tradizioni popolari, anche questo è un modo per trovare una libertà, secondo me. Sì, poi perché anche le televisioni cercano di omologare tutto, sì, no? Di appiattire tutto uguale. Tutto uguale. Non è così. Se sei uguale, sei a posto. A posto. Sei leggermente diverso. Sei uno di noi. Sei uno di noi. Mentre la vera sfida, a parte che ho trovato sempre un piacere nell'essere, di appropriarmi di una certa diversità, cioè di essere un po' diverso. E quindi anche questa sfida di cantare in dialetto è anche un percorso che mi porta a un certo tipo di diversità. Poi spesso mi trovo tra due correnti, perché non faccio musica tradizionale popolare, ma utilizzo la lingua in dialetto, ma utilizzo dei generi musicali moderni, e quindi ti trovi tra la corrente dei puristi che vogliono sentire le canzoni popolari fatte in una certa maniera come le hanno sempre sentite, e invece chi vuole ascoltare generi musicali come il blues, come lo vogliono sentire magari in inglese, perché mi dicono perché non canti in italiano, cioè in inglese, non perché canti in abruzzese, come se capissero meglio l'inglese. Volevo allacciarmi una cosa adesso. Io ho dato un'occhiatina alla video intervista che hai fatto con i musicisti, sì. L'Abruzzo dietro le quinte, l'ho trovata veramente simpaticissima, consiglio di andarla a vedere. Mi hanno incuriosito due persone, Massimo Di Ponzio, sì, con questo strumentino particolare, e poi Michele Avoglio, spero di dire correttamente il cognome, no? Fondatore dei Discanto. E proprio Michele diceva, nella questa sua, non so se eri tu che l'intervistavi perché lì non sì, si ero vede, io, ero ecco, io. Dice che in pratica è la musica della memoria. Mi è piaciuto tantissimo questo termine, musica della memoria. E poi aggiunge un altro punto: la musica deve creare comunità, diventare consumatori della stessa cosa. E qui mi riallaccio a quello che grosso modo, certo, dicevi tu adesso. Allora, complimenti a Michele per sì, queste. Michele Avoglio è il fondatore dei Discanto, che è un gruppo che fa proprio ricerca e canta canzoni dialettali tradizionali, e si parla proprio di comunità, cioè la musica serve proprio a quello, a stare bene insieme, a incontrarsi. Se ci sono diversi musicisti, io tendo sempre a cercare collaborazioni, vedi il caso di Michele. Invece il messaggio che ci arriva solitamente dalle televisioni è quello della sfida, cioè di metterci l'uno contro l'altro. Io devo essere migliore di te perché devo vincere il premio del nulla. Sì. E questo è un po' il messaggio. Invece ci quello che si mettono in auspica, continua competizione. Continua competizione. La competizione dei poveri. Sbagliatissimo. Però mi rendo conto anche che poi quelli sono i contenitori dove un musicista o un cantautore riesce a emergere, riesce a farsi promozione facilmente. Certo, lo fa con una certa difficoltà, ma lo fa, cioè tenta di farlo. Sì. Qualcuno ha anche scritto, cantautore abruzzese con un legame, con una liaison con l'America Stellestrice. L'America Stellestrice viene e va praticamente, scorre nelle tracce del disco, ma scorre nel senso positivo, non negativo. Non c'è una accoppiatura, c'è un punto di riferimento che è diverso. C'è la contaminazione. C'è la ma quella bella, quella positiva. Io sono per la contaminazione, non sono per l'omologazione. È quello, è diverso. Perché è una cosa differente. Chiaramente non voglio nemmeno scimmiottare i bluesmen. No, assolutamente. O i cantanti americani. Esatto. I cantautori americani. Mi sento molto italiano, mi sento molto abruzzese nel particolare. E mi piace quel genere di musica. Quindi è quello che fa un po' la world music, no? Certo, ho capito. Benissimo. Musica di contaminazione. Sì, musica di contaminazione, solamente di cercare di scambiare le impressioni, non soltanto i suoni, le impressioni. Anche quella è la world music, secondo me. Arriva anche a quello. Anche perché il blues poi sottointende anche una personalità musicale che a me piace e quindi voglio importare anche nelle mie canzoni. Sono d'accordo. Maurizio, visto che parliamo di blues, io direi che possiamo andare con la prossima traccia. Certamente. Che se non mi sbaglio, qui parliamo di blues, mi sbaglio. Come volevi tu? Sì, è proprio un blues. Un blues, la canzone si chiama Come volevi tu, e spesso ci raccontano molte fiabe da bambini. E ci fanno vedere molti film hollywoodiani con un lieto fine, con una distinzione netta tra il bene e il male, no? Poi nella vita, guarda caso, non è esattamente così e non è come volevi tu. Adriano Tarullo. Un bel giubbino rosso te lo sei messo addosso e nello specchio anche di lato ti sei guardato e riguardato. Il tuo specchio però era un'altra cosa e non era come volevi tu, come volevi tu, come volevi tu. Tu tiranno pallone, bisogna tenno campione. Il tuo lavoro però era un'altra cosa e non era come volevi tu, come volevi tu, come volevi tu. Amore, giustizia, pace, tanta amicizia, non c'è niente di sbagliato in quel che ti hanno insegnato. Hai offerto l'altra guancia, hai dato sempre la mancia, dicono quelli del palazzo, wow, che bravo ragazzo. Dentro casa Babbo Natale però era un'altra cosa e non era come volevi tu, come volevi tu, Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Bella, bella, veramente bella musica, Maurizio. Sì, più che blues, Adriano, è un talking blues questo qua, secondo me. Talking? Sì. Parlare di blues. Parlare di blues, cioè che usi l'ironia in una certa maniera per parlare di argomenti importanti, ma usi l'ironia qua, perché la gente deve capire, deve sentire, deve recepire. Con l'ironia certe cose vanno avanti, senza offendere nessuno, ma per poter dare un'interpretazione chiara, anche semplice, ma con un certo distingo, secondo me. Il talking blues, nel senso, non è proprio cantato, è più quasi parlato in alcuni momenti, per quello mi è venuto in mente il talking blues. L'ironia è sicuramente un mezzo. C'era qualcuno che diceva con le canzoni non si fanno rivoluzioni. Non è mica vero, secondo me. Si sono fatte molte rivoluzioni con le canzoni. Beatles permettendo. Con Beatles Docet più che permettendo. Con dei movimenti. Con dei movimenti, sì, non esattamente. Non con canzoni singole. No, con dei movimenti che hanno portato a questo. Io cerco di almeno insinuare un piccolo dubbio, ecco, solo questo, perché poi assimilare un'idea vuol dire avere un'esperienza diretta, certo, e cercare delle informazioni adeguate per assimilare quell'idea. Ecco, ci proviamo perlomeno a dire la propria, io voglio dire la mia attraverso la canzone. Attraverso la musica, sì. Attraverso la musica. È una cosa importante, sì. È un bel linguaggio, un bel punto di appoggio, dire le tue idee con la musica. Poi avviene questo, che in qualcuno insinuo magari un dubbio e in altre persone trovo un collegamento diretto, cioè come avviene con me quando ascolto altri cantautori. Ti può ispirare, ascoltare un cantautore, qualcosina ti può ispirare sicuramente, non il testo ma anche il modo, l'atteggiamento. Sì, sono sempre le idee che mi piacciono. Ci sono canzoni che non sono molto elaborate dal punto di vista letterale, però mi piace l'idea di fondo. Oppure ci sono canzoni molto scritte molto bene, o canzoni anche suonate molto bene, dipende dai dalla capacità sicuramente. Esattamente. Prima cari ascoltatori, citavamo Iva Graziani, Adriano è abruzzese, Iva Graziani era abruzzese purtroppo. Poi se n'è andato un po' di tempo, però era bravo musicalmente. Purtroppo se n'è andato. E purtroppo se n'è andato, esatto. Se fosse ancora vivo, certe altre cose le potrebbe dare, assolutamente. Cantautore di grande capacità, ma musicale, era un grande musicista. Ecco, per esempio Ivan Graziani è un cantautore che mi piace come approcciava con come la musica. Perché cantava avendo una chitarra elettrica, cosa che non si vede spesso, oppure c'è una chitarra elettrica ma non è nemmeno collegata all'amplificatore, mentre lui suonava realmente. Era lui che creava, era prima di tutto un chitarrista, no? Esattamente, perché noi il cantautore lo abbiamo sempre immaginato chitarra acustica e voce, ma non è Ivan, non era proprio così. La chitarra acustica diventava una chitarra elettrica e lui parlava con la chitarra elettrica. Molti cantautori hanno un approccio minimale proprio con lo strumento, sono più letterati magari, sono più intellettuali, e invece Ivan Graziani, ripeto, era un chitarrista e voleva far sentire anche la musica, cosa che, guarda caso, non viene fatta sentire spesso. Vengono tagliati gli intro delle canzoni. È vero. Vengono tagliati i solo delle canzoni. Quando uno ci mette tanta passione per farli, e poi. Perché deve essere omologato tutto. Tutto omologato, deve essere solo la melodia. Si deve sentire solo l'estetica della musica. Questo è vero, ma tu la pensi in modo diverso, però. Assolutamente. Appunto, per quello. E io vengo qui a Blu Radio Veneto perché facciamo sentire i pezzi dall'inizio alla fine. Esatto, qui ci sono tagli, cari ascoltatori, dall'inizio alla fine. Perché si deve tagliare un pezzo? Al di là delle esigenze, di tempo, quello che vogliamo. Il pezzo deve essere, se uno dura, non so, tot minuti, quello deve durare. Certo. Perché un cantautore, un musicista, un artista ha ideato, ha pensato quel pezzo in quel minutaggio. Sì, sì, assolutamente d'accordo, però ecco, non c'è culturalmente un approccio tale. Ma questo succede spesso in Italia, caro Adriano. All'estero l'approccio è diverso. Tu sei, a proposito di estero, adesso citiamo una cosa molto interessante, lui è stato in Belgio un po' di tempo fa, ma è stato in Belgio per una cosa molto importante, vero Adriano? Sì, praticamente c'è stata una manifestazione chiamata Vox Terris, il cui tema era il lavoro nelle miniere. Essendoci stati molti migranti da tutte le nazioni europee, mi hanno chiamato in rappresentanza del popolo abruzzese. Abruzzese. Sì, perché ci sono stati molti abruzzesi a lavorare, tra cui anche mio padre. Ed è stato molto piacevole incontrare diversi cantautori, anche trovarsi in uno stesso tavolo a dialogare diverse lingue. Ecco, a dialogare in diverse lingue, parlare assieme, esatto, senza barriere. Concilio, il concilio tra musicisti. Esattamente, bellissimo. Un'Europa veramente unita, in cui si parlava spagnolo, francese, italiano, italiano più a gesti, perché si sì, beh, d'accordo, però c'era, ma si capiva lo stesso, però. Sì, che poi l'atteggiamento molto differente da quello che ci propongono in prima serata quando si parla di musica, e c'è questa sfida in cui tu devi essere, ripetiamo, sempre migliore di quell'altro. Invece lì c'era una completa armonia tra diverse persone che volevano suonare e stare insieme. Ecco, quello è importante, è fondamentale, perché tu hai detto giustamente una cosa mentre prima, microfono spenti, prima di cominciare il programma, che la musica è una cosa, è fa gruppo, poi hai detto un'altra cosa. Sì, la musica ha questo obiettivo. È l'unione totale degli intenti. Prima si suonava per stare insieme. Esattamente. Per aggregarsi. Per aggregarsi. Invece adesso l'aggregazione non è che fa tanto comodo a chi vuole manipolare la massa. Sì, qui entriamo un po' su un argomento particolare, perché io penso possa essere anche dovuto al benessere che abbiamo avuto fino adesso. Tu stavi parlando delle miniere. Lì era veramente, c'era la sofferenza, certo, si faceva fatica, e dove c'è sofferenza c'è molta unione. Sì, e i valori che alla fin fine qui purtroppo abbiamo perso, difficile ritrovare. Non a caso si partiva proprio per mancanza di lavoro e venivano attaccati dei manifesti, certo, in cui nemmeno si aveva l'idea di cosa si andava a fare, poi lì il lavoro delle miniere non si conosceva. Certo. E una volta lì la vita era molto dura, molto particolarmente dura. Che lì tra l'altro mi sembra sia stato in Belgio la famosa tragedia di Marcinelle, sì, purtroppo. Sì. Maurizio. Sì, dimmi, adesso è l'ora che Adriano, sì, faccia un altro pezzo, chiaramente. Esattamente. Sì. Dal vivo, che cosa Adriano, cosa hai scelto? Io farei un pezzo che si chiama Bianco. Il capotasto l'hai messo in una certa maniera adesso. Sì. Caresco, tu, lui l'ha messo in una certa maniera perché vuole dare un suono in una certa maniera adesso. Esatto. Il capotasto viene utilizzato per stabilire un po' la tonalità. Esattamente. No? Ognuno ha una voce, si trova meglio su delle tonalità. Certo. C'è da dire anche che la chitarra con il capotasto ha anche diverse sonorità. Un altro timbro, sì, più acuto, che a me piace. Beh, ti soddisfa. Sì, sì, esattamente. Sì, sì, sì, sì. E cosa ci fai soddisfare adesso in questo momento? Soddisfiamo gli ascoltatori con una canzone, si chiama Bianco. Bellissima. Che bellissima che abbiamo scelto, grazie, vero Gino? Sì. Abbiamo scelto per dare il colore al disco, per dare l'avvio al disco. Abbiamo scelto io, Alberto Plisco, che è il nostro direttore artistico, che salutiamo stasera. Ciao Alberto. E Gino e tutto lo staff. Ciao Alberto. Bianco. Bianco perché è un pezzo importante. Allora, Bianco è un pezzo nato proprio nelle montagne. Io vivo a Scanno, a 1000 metri di quota, in provincia dell'Aquila, e qui descrivo un evento particolare in cui c'è stato più di 1,5 metri di neve e si è venuta a creare una situazione abbastanza insolita, perché non c'erano auto in giro, chiaramente le auto erano sepolte proprio, sì, dalla neve. Neve. E poi sono venute giù delle slavine che hanno isolato il paese, delle slavine sulla statale, quindi hanno chiuso la statale e il paese era praticamente isolato. Però in questa situazione di isolamento era stato un po' come tornare indietro nel tempo, e la gente era più sorridente, era più propensa a darsi una mano, capito? A lavorare insieme, a spalare la neve. E poi c'era questa immagine bucolica delle vacche in mezzo alla strada sulla neve, un lupo è sceso in mezzo al paese, il lago, noi abbiamo un lago bellissimo, venite a vederlo a Scanno, a forma di cuore, che era completamente ghiacciato. Allora, quando ho visto questa situazione anomala, ho detto ma pozza neanche sempre, pure senza neve, cioè possa nevicare sempre anche senza neve. Perché sì, chiarissimo, l'effetto era bellissimo. E poi quindi ho scritto una canzone sul momento che era inevitabile, assolutamente. Consigliamo tra l'altro per chi vuole di andarlo a vedere su YouTube, perché c'è la canzone legata proprio a quell'immagine. Sì, sì, in quei giorni sono andato in giro con la telecamera e quella che ho associato poi alla canzone nel video sono immagini di repertorio, anche sull'elicottero in cui c'è il lago, si vede il lago ghiacciato, oppure queste vacche in mezzo alla strada, erano molto, molto singolari. Sono andato anche in mezzo alle montagne, devo dire anche abbastanza faticoso perché la neve era abbastanza profonda. Andiamo a suonare, certo, Adriano. Va benissimo. C'è qualcuno che discute in un angolo del bar. Ricordi che le mura hanno imparato a memoria. Aniceto ti chiede se gli offri il caffè, mentre Annunzio sbuffa nell'aria. Una domanda anche per te. Le luci della festa sono spente, Natale non è, un vecchio parla e nessuno lo sente, parla di sé. E allora bianco, vuoi ballare con me questo finto tango? Cadremo scivolando, ridi che il mondo è stanco, pozza neanche sempre, pure senza neve. Nessuna auto in giro e gente che si dà da fare. Sorride senza volerlo, senza paura di farsi aiutare. Qualcuno mastica rabbia la sera e ingoia una grappa per il freddo che ha. Insulta il cielo e sogna una donna, un amore in un'altra città. Le luci del giorno sono spente, ma buio non è, la notte ascolta il rumore di fondo che porto con me. E allora bianco, vuoi ballare con me questo finto tango? Cadremo scivolando, ridi che il mondo è stanco, pozza neanche sempre, pure senza neve. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:50 Blu Radio Veneto. Allora, Adriano, un'altra bellissima canzone, però io volevo parlare anche di qualcosa di particolare, del 15 settembre 2013. Dove tu hai fatto una cosa un po' particolare con due artiste, sì. Posso chiamarle così, perché Eccole qua, sì, Maurizio. Sì, sì, sì. Dopo te le faccio vedere. Ecco. Sei andato a scovare. È un evento un po' particolare, originale e molto bello. Penso che sotto l'aspetto emotivo deve essere stata un'esperienza fantastica. Allora, in pratica, Adriano ha creato, si è messo su una stanza con queste due artiste che sono Benedetta Fronterotta e Carlotta Quintiliani. Sì. In pratica sono due pittrici. Ecco, sì. Sono stati fatti dei quadri, però vorrei che lo spiegassi sì, tu. Sì, poi, praticamente è un evento in cui c'è stato un incontro tra musica e pittura. Questo è il bello dell'incontro, no? Di quello che parlavamo prima del concilio tra artisti, tra persone sostanzialmente. E quindi io ho suonato i brani dell'album e queste due mie amiche, Carlotta e Benedetta, hanno dipinto dei quadri in relazione alle note, alle parole che sentivano nel laboratorio poi di Carlotta. E c'era chi passava, era anche affascinato, rimaneva a guardare, a sentire. E devo dire che c'erano anche molti giovani che si sono fermati. Quindi perché non rifarlo? Perché non includere altre forme d'arte? Sono sempre disponibile a qualsiasi tipo di collaborazione. È bello, una cosa molto positiva. È stupendo anche perché poi io non so, a me piace tantissimo ad esempio Vento e Ovunque tu sia, sono i due quadri che mi piacciono di più. Sì. E scorgo poi, non so se sia vero o meno, io vedo dei volti all'interno, anche su mura. Sì. Poi non so se quello che vedo io oppure veramente ci sono. Non ho fatto io i quadri, quindi non posso. Però sì, c'è un volto in un quadro specifico. Sì, e poi questo bianco di Carlotta Quintiliani, che lo trovo elegante, crea forse proprio legato alla neve. Ha fatto questo quadro veramente stilizzato, elegante. Fai i complimenti a parte nostra. Sì, sicuramente. Gli farò sentire l'intervista e saranno sicuramente felici di ascoltare queste parole. Una cosa, una bella cosa che tu hai fatto con le pittrici, e mi ricordavo determinate cose degli anni 60 fatte in America, soprattutto da Andy Warhol assieme ai Velvet Underground. Non facevano proprio queste immagini, però facevano le immagini, i flash visivi con le luci, però l'idea era sempre la stessa. Di tu con le artiste hai dipinto, loro hanno dipinto determinate sensazioni, hanno dipinto le sensazioni che provavano sentendo i tuoi pezzi. E all'epoca Andy Warhol, grazie alla sua intuizione, giocava con le luci sulla musica dei Velvet. Noi, perché ho citato i Velvet? Perché recentemente purtroppo se n'è andato Lou Reed, sì, sì. Un grandissimo. E tornando a Bianco, questo pezzo molto bello, meraviglioso secondo me, mi ricordava all'inizio, solamente nell'arpeggio iniziale, La casa di Hilde di De Gregori, il primo disco di De Gregori, un disco molto antico di De Gregori, forse si è dimenticato anche di averlo fatto, lui ha sempre detto che Alice è stanco di ripeterlo perché è un peso molto grave da portare, perché tutti chiedevano Alice. Ma La casa di Hilde ha cose meravigliose e l'arpeggio iniziale mi ricordava, Noel, il testo è un'altra cosa, però quel tocco iniziale, sei molto bravo te a suonare la chitarra, mi ricordava quell'esempio là, quell'arpeggio, quell'intonazione, quel colore un po' melanconico che aveva La casa di Hilde. Allora, diciamo che De Gregori sicuramente ha fatto parte dei miei ascolti, ma ancora prima i miei ascolti sono più, ecco, americani. Come lo stesso era per e lui è sempre De Gregori. Stato americano. Sì, lui era un fan, è un fan di Dylan, assolutamente. Io mi sento molto legato anche a Dylan, ma soprattutto a Springsteen. Sei un cristiano tu praticamente. Al contrario di Gregori. Assolutamente no, lui solo Dylan e basta. Springsteen non fa parte del suo DNA. No, ha dichiarato proprio che non, sì, non ama. Non ama, ha detto che è un furbo del rock. Ecco, vabbè, si potrebbe discutere anche su questo. Non con De Gregori, per carità, però ognuno ha proprio opinione. Io sono cresciuto con la bandiera di USA. Sei cresciuto con sì, USA. Diciamo che è stato il primo album che è poi quello un po' più commerciale, sì. Però che mi ha avvicinato proprio a un altro tipo di ascolto di musica, e a quello alla discografia di Springsteen. Poi annuiscono i due tuoi amici che sono annuiscono a proposito di Springsteen, annuiscono assolutamente. E poi ho ascoltato quelli precedenti che sono, vabbè, Bortoran, sì. Secondo beh, quando parliamo di commerciale, che bello parlare di commerciale col boss, è sempre bello parlare di commerciale sì, col sì, boss. Sì, sì, sì. Certo, preferisco, ecco, quelle sonorità sempre più anni 70. Nebraska ti piace del boss? Nebraska, sì, un po' più minimale, preferisco sempre... Ma che gran coraggio fare un album di quel genere in quel momento. Sì, esattamente. E dopo quel momento di lancio, di grande di euforia, successo, certo. Ha detto forse è troppo successo. È arrivato a Nebraska, ha rotto tutti gli incantesimi. Ha proseguito una strada senza bisogno di tanti giochi di potere musicali. Lui era il boss, è sempre il boss, nonostante tutto. Beh, ci sono scelte coraggiose, certo. A volte ti può andare bene, a volte ti può andare male. Il boss ha una carica strepitosa e se lo può permettere. Certo. Cioè. Ma anche la scelta che hai fatto te di invitare queste pittrici è stata una scelta coraggiosa, cioè una scelta diversa, è importante, giustamente come hai detto Gino, ecco, una scelta che ha spiazzato, che ha fatto riflettere che ci possono avere tante possibilità. Sì, poi io non ho inventato nulla, nel senso che però era il messaggio un po' di quegli anni, come dicevi tu, negli anni 60, 70. C'era una ricerca tra musica ed arte, sì, una cosa assieme, perché musica è arte, c'è poco da fare. Ah, come sì. No? Perché si ha l'esigenza di creare, Adriano? Esigenza di creare. Allora, io ho avuto un momento in cui partecipavo a dei concorsi, mi mettevo un po' in gioco e sono finito a fare delle cose che non mi piacevano assolutamente. E ho avuto, insomma, una brutta esperienza in cui ho avuto un rifiuto proprio di me stesso, come cantare in playback. Partecipare a concorsi tra sfilate di moda e sponsor, cose che non sopportavo assolutamente, e da quel momento decisi di non fare più musica. Ci ho detto no, basta, non è per me questa cosa. Ecco, dopo 6 mesi è tornata più forte e inevitabile. Mi sono detto, sono nato per creare canzoni. La vita è questo, è dare sfogo alla fantasia. E poi l'ho fatto come piaceva a me, cioè cantando in dialetto, suonando i generi musicali che a me erano più vicini, senza dover dar conto magari a qualcuno. Sì, sì, esprimi la tua libertà comunque. Sì, è un'esigenza anche dentro la stanza, stare da solo con la chitarra, è un'ottima compagna, ti segue, quando sei triste lei è triste, quando sei felice lei bellissimo. È felice. Sì, è come fai a non suonare, a creare? Quante chitarre hai a casa? Abbastanza. Una bella quantità. Sì, chitarre di vario... Cioè, di solito non compro diverse chitarre dello stesso tipo. Una chitarra esofonica, acustica, elettrica, anche una chitarra in carbonio. Cioè? Al posto del legno in carbonio, perché un mio amico che lavorava in una ditta di carbonio con elementi di scarto è riuscito a crearmi questo gioiellino. Bravo, stato. Sì, poi vabbè, abbiamo messo il manico in legno. Sì, d'accordo. Però. Quindi avrà un suono particolare. Sì, un suono particolare, perché nonostante abbia dei pick-up, cioè dei magneti nati per fare musica rock, con questo corpo in carbonio può essere più utilizzata nella fusion. Ah, ho capito. Un suono più. È diverso, non propriamente rock. Poi ho una Cigar Box, che è una chitarra fatta con la custodia dei sigari. Ah, però. È bello, interessante. Che è acquistata da un artigiano statunitense tramite eBay. Poi sono andato a occhi. Non sei andato direttamente? No. Però mi piaceva questa idea, la chitarra è molto rudimentale, cioè un manico molto, che è un po' un manico della scopa. È una chitarra a 4 corde, però ha un bel pick up e suona molto bene. E infatti l'ho utilizzata anche nel disco. Qualche brano del disco. Sì. E a proposito di disco, Maurizio? Sì, sentiamo qualcosa d'altro. Sì, io direi sì di ascoltare un'altra bella canzone che si chiama Cimerose. Esattamente. E dà un bellissimo intro in canto popolare. Sì, vorrei fare una premessa. Vai. Proprio su questo brano, perché è una delle 3 rivisitazioni di canti tradizionali abruzzesi. Questa canzone, insieme a Canto di Mietitura, sono state riprese da delle registrazioni di Diego Carpitella, che era un etnomusicologo, e incluse poi in un libro di un altro etnomusicologo moderno, contemporaneo, che è Domenico Di Virgilio, il quale mi ha suggerito proprio di sentire queste canzoni. E quindi ci sono queste vecchie registrazioni degli anni 70 in cui c'è solo la voce cantata da lavoratori, gente comune, e quindi ci sono questi canti di lavoro, canti di questo, canti d'amore. Io ho ripreso questa linea melodica e ci ho costruito attorno la linea armonica, quindi gli accordi e tutti gli arrangiamenti. È stato questo, diciamo, lo sfizio, il divertimento per me, ma anche riprendere questi canti tradizionali, perché bisogna attingere un po' dal passato per guardare avanti, no? Certo. E questa canzone Cimerose, quando l'ho ascoltata, c'è questo sciamano proprio della Maiella, cioè della montagna, la Maiella abruzzese, si sente proprio che è uno stregone, e io quando l'ho ascoltato sono rimasto affascinato e ho detto: questo è un blues, questo è vero. E quindi mi è venuto naturale suonarci sopra un blues vero e proprio. E, che dire, sì, mi fa pensare questa cosa, visto che poi sembra un vero e proprio blues, che prima di finire nei campi di cotone dell'America, dall'Africa siano partiti alcuni canti e si siano poi stabiliti in Italia e altrove, e nelle montagne anche abruzzesi. Bene, allora ascoltiamoci Cimerose di Adriano Tarullo. Era un cimerose anche in affir, sape comprata la chetarna no, e yet non si è le menga mal, lo cimerose va fa suonatore. Cimerose anche una fiera, s'ave comprata una chitarra nuova, e niente non si è e manca male, lo cimerose può fare suonatore. Le cimerose in chi non commenta, se l'era passava 366 cioccolante, arrivette non si è le immenche male, luce in brosella me se può fa santa. Cimerose picchiava per mare, liava guarenne, li male francese, arrivano un ziel nilo fuse, schello verghiette ieri un bisso lunase. Acciuffata s'accidente, te fa vergogna. Blu Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Sempre in compagnia di Blu Radio Veneto con Adriano Tarullo per presentare il suo ultimo album, Anch'io voglio la mia auto blues. Forse Adriano non lo sa, ma Gil tu lo sai sicuramente. A una certa ora, 23, siamo a 23.06, di solito facciamo a 23.02, c'è un piccolo giochino. Semplice, vero Gil? Certo, certo. Molto, visto che tu sei lo speaker ufficiale della radio, in questo momento lo esprimi, lo espliciti. Allora, lo facciamo contento. Anziché mandarlo sull'isola, lo mandiamo su una montagna dell'Abruzzo. Lo mandiamo sulla montagna. Un po' in solitudine, bisogno di creatività. E ti puoi portare 5? Sì, cinque. Siamo da soli stasera. 5 album. 5 album. Ci vuole il suggerimento di Emanuele. Ci vuole la pergamena. La pergamena. Emanuele ha una cosa meravigliosa, una pergamena del 1995, 4 gennaio mi pare. Cinque... un'isola deserta. Non è un'isola deserta, è la montagna dell'Abruzzo. Io direi di portare roba nuova, da come sentire. Vuoi, puoi portare quello che vuoi. No, ancora da ascoltare. Ancora da ascoltare. Però, se diciamo 5 dischi. 5 entità musicali. 5 entità, che ce ne sono parecchie, perché il giro è stato abbastanza contorto. Però direi di portare sicuramente un Borto Run di Springsteen. Del boss, il boss sì. Ci voleva. Lo dicevamo prima. Sì, certo. Poi porterei un album dei Led Zeppelin. Quale dei Led Zeppelin? Ma scelta, dei primi quattro, facciamo il quattro che è il più... Sì, per due se stai, vuoi tu, Ive, eccetera, eccetera, eccetera. Il più amato, non è detto che sia il più amato, uno dei più amati. Sì, dei... sì, sì, sì, anche se gli altri... Anche se gli altri sono amati lo stesso, dai. Con i Led c'è tutto, amiamo tutto dei Led Zeppelin, sì, o sì. Quasi sono, o quasi. Parte fondamentale della mia crescita musicale sicuramente Led Zeppelin. Che non sei un batterista, non sei Bondo, te, però. No, no, assolutamente. No. Poi porterei, qualcosa di italiano, per avere un riferimento italiano, e porterei un live. Di chi? Non un disco in particolare, io porterei un live di Guccini, Francesco Guccini. Cosa perché... dici? Perché Gino è un grande amante di Guccini, anche l'ultimo disco. L'ultimo disco, l'ultimo, a me non è piaciuto. L'epitafio, però insomma... A me piace quando lui è un bravissimo oratore, no? E certo. Lo fa soprattutto nei live. Esattamente, lui spiega. E secondo me è il migliore cantautore per quanto riguarda la parte letteraria. È un grande poeta. Questo è il mio personale... Io sono Guccinano convinto, fino all'epoca di Folk Beat numero 1, 1967. Ricordiamo per un sacco di gente che Dio è morto, l'ha scritto Francesco Guccini. Sì, già uno che scrive Dio è morto, che all'epoca era un pezzo rivoluzionario, bellissimo, meraviglioso. Eccolo qui, sottofondo. Questo è un live. Questo è un live, Quindi direi un live di Guccini. E poi andrei su degli ascolti un po' più contemporanei per me. E metterei Derek Trax, che è un chitarrista americano. Perché? Che specialità ha questo chitarrista americano? Ma è un chitarrista bravissimo, perché suona con lo slide. Quindi accordature aperte, certo. Con la chitarra, e fa un blues veramente ottimo, bello, c'è una forza della band che a me piace particolarmente e l'ho visto anche dal vivo. Devo dire che è stato uno dei migliori concerti. Che Emanuele l'ha visto dal vivo. Mio amico Emanuele che sta qui in studio è stato con me. Oppure un disco anche di Robben Ford. Ecco, un altro grande bluesman. Sì, un altro chitarrista. Un chitarrista elettrico però. Elettrico, siccome siccome avevamo citato Derek Trax. Esattamente. Sì. Che mi è piaciuto un po' di meno dal vivo. Però come mai ti è piaciuto un po' di meno dal vivo? Perché è una sensazione più forte nel disco che non dal vivo. Sì, e sicuramente c'era l'impatto della band per quanto riguarda il concerto di Derek Trax, che è molto più forte, convincente. Più convincente. Sì, sì, sì. E poi adesso metterei un altro cantautore statunitense che l'ho conosciuto proprio attraverso la ricerca. Cioè non bisogna farsi imboccare negli ascolti musicali, bisogna andare alla ricerca di quello che ti può piacere, ma non solo le informazioni, non solo le informazioni musicali. E questo tra l'altro non so nemmeno come si pronuncia bene, perché l'ho trovato su YouTube e poi ho ho ascoltato vari pezzi. Lui si chiama Kelly Joe Fels. Ecco, non lo conosco. E infatti non è molto conosciuto in Italia. E ti è piaciuto? Sì, perché utilizza molto quella tecnica del finger picking che si accompagna con chitarra e voce. Tra l'altro ha una bellissima voce. Bene, bene. Gli ascolti ce ne sono tanti, sì, e si possono scoprire. Cinque album sono pochi però sai, i tempi sono quelli, ma più che altro è giusto dare una certa colorazione. Stasera abbiamo dato la colorazione di Adriano, una colorazione di un certo peso. Adesso sono le 23:11, cosa facciamo, caro Adriano? Sentiamo un altro pezzo da disco, vuoi suonare? In scaletta cosa c'è? Facciamo e questo insieme, Kelly? Insieme sì, eccolo qui. Eccolo, hai trovato, bravo G. Questa è una dobro. È una dobro. Non sono un nasale specifico della chitarra. Questa è la tua tecnica, no? Il finger. Questo è più slide. Tra l'altro io ho portato uno slide un po' dopo particolare. Dopo lo fai un pezzo, dopo lo fai. E un slide particolare perché? Perché questo è uno slide di montagna. Ah, perfetto. Adesso facciamo una fotografia del slide di montagna. Allora. Sì, perché che differenza c'è da quello di città? Allora, facciamo prima una piccola premessa. Ecco, esatto. Beh, perché cioè i cervi perdono le corna, cioè le perdono naturalmente, e quindi girando per le montagne puoi trovare queste corna di cervo. Ecco, un mio amico, prendendo le corna, ci ha costruito uno slide, e quindi lo slide è quello che usavano i bluesmen, cioè il collo di bottiglia. Fammi sentire un momento la sonorità di questo. Dovrei lo fai dal vivo, non c'è problema. Sì, dovrei accordare la chitarra. Adesso la accordi un momento la chitarra, non c'è problema. Vedi. Lo slide da un cervo, da cervo. È molto interessante. È la prima volta in assoluto che ospitiamo uno slide di questo genere. Beh, questo penso sia unico. È unico. come fattura. Facciamo suonare Adriano. Sì, facciamo suonare Adriano. Io direi di mandare un pezzo del disco, pezzo e ci suono sopra. Facciamo le cose insieme. Sto scherzando. Facciamo un pezzo. Io vorrei fare qualcosa che un pezzo che del secondo album. Benissimo. Che si chiamava? L'album si chiama Spartenze. Sì. E voglio fare un blues che è Remani. Si chiama Remani, cioè ritornare. Parlavo prima del secondo album che parla del distacco, quindi sì, dell'allontananza dal proprio paese per andare al lavoro, perché il lavoro non si trova e allora bisogna andare altrove. E questo brano parla proprio di questo, cioè ritornare, più che andare via, ritornare, remeni, al proprio paese, ma per fare cose magari semplici, come prendere un caffè dal barista di fiducia, oppure farsi una semplice passeggiata. Attaccarsi al campanile, sentire le campane che suonano, cose del genere, incontrare amici, familiari. Ecco, Manuele in questo momento sta cacciando la sua lacrimuccia perché è lontano dal suo paese, e quindi ho scritto questa canzone, Remani. Stufa, dice che ama stufa, dice la boria, dice la boria, e all'Australia ce ne vuole io. Ma più caffè, hai un barrita, ogni sera dei venerdì, lavo una crema, te faccio una crema, Arnaldo mi dice così, vuoi sapere dove sta il paradiso alla città, non saccio perché. Io paese voglio rimani. E sarà l'aria che ci respira, sarà il tempo che non cammina, sarà la palla di un campanare che le lisce da non scorda più. Stop, stop, stop, ruscia da fermare agli incroci della città. Manuele si sta incazzando in mezzo al traffico va fatica. Voglio sapere dove sta il paradiso alla città. Non saccio perché a io paese voglio rimanere. Voglio sapere dove sta il paradiso alla città. Non saccio perché a io paese voglio rimanere. Rockwave, Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Adriano, c'è un ricordo maggiormente emozionante legato alla tua attività artistica? Perché non è recentissima, bene o male hai, questo è il quarto album, se non mi sbaglio. Guarda, un evento che ricordo molto piacevolmente è uno dei primi concerti fatti proprio nel mio paese, perché la difficoltà sta proprio emergere nel tuo paese, no? Perché sai, c'è l'invidia, c'è... ti guardano sempre e dicono cosa stai facendo, va a lavorare. E quindi dopo il primo album abbiamo fatto un concerto ed è accorsa molta gente e c'è stato proprio, c'erano quegli applausi fragorosi ed era proprio come essere accolti dalle persone del paese. Questo mi ha fatto molto molto piacere. Bellissimo. E a proposito del pezzo che abbiamo sentito prima, c'è una citazione di Emanuele qua davanti. Sì, l'hai citato. Emanuele, senza la Manuele. Visto che lui è un po' di tempo che è lontano da Scanno, chiaramente parlavi di partenze, di allontanamenti. Non è un caso che l'abbiamo citato nella canzone, che stando lui ha avuto un passato pure a Roma e quindi si incazzava in mezzo al traffico. È un po' caotico il traffico di Roma, sì, non quello di Scanno, chiaramente. È un po' diverso. Nel ritornello io dico, voglio sapere dove sta il paradiso alla città, perché l'esigenza poi di uscire fuori dal paese è anche... l'aspettativa, cioè questa aspettativa di trovare chissà quale paradiso, no? quale terra promessa. E quindi dove sta il paradiso della città? Non so perché al paese voglio ritornare. Ho capito, questo era il senso del discorso praticamente. E la lontananza, la lontananza provoca sempre determinate sensazioni. Tu le hai musicate in dialetto, chiaramente in dialetto nell'altro. Ma si possono anche musicare in italiano, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. C'è sempre un collegamento, c'è sempre un'ispirazione, purtroppo qualche volta malinconica, molto malinconica. Soprattutto in quell'album è un concept raccontavo proprio il paese, perché anch'io ero fuori per motivi di lavoro, ero fuori dal paese, quindi lo sentivo proprio forte questo richiamo, della foresta. E il richiamo della foresta, come si costruisce un pezzo da Adriano? Adriano, come inventa un pezzo? Un giorno mi fermo, scrivo, oppure continuo? Qualche musicista ha un piccolo note, una volta si usavano i note, adesso si usano i telefonini, per praticamente fermare l'idea. È importantissimo fermarla. Io uso un registratore. Poi ci sono diversi approcci, no? Magari viene fuori il pezzo con la chitarra e dici ok, questo mi piace. Ci sono pezzi di solo chitarra e poi strumentali in cui ho deciso poi di cantarci sopra, quindi c'è una certa elaborazione, un bel approccio dal punto di vista musicale, strumentale, e poi ci ho cantato anche sopra una canzone, mentre altre canzoni nascono insieme. E quindi vado successivamente a limarle, a approfondire il discorso musicale. Certo. Sono diversi gli approcci, non ce n'è uno definitivo. Proprio di approcci, citiamo leggermente, tu hai già citato due o tre musicisti, c'è qualcun altro che ti ha dato una mano nel disco oltre a qui, ai già citati? Sì, ci sono diverse collaborazioni, molte sono di musicisti che suonano anche con me Abitualmente dal vivo. Sì, poi come ho detto prima c'era Alfredo Serafini, sì, al mandolino. Certo. E bisogna tenere in considerazione che lui è un chitarrista in realtà, anche molto hard rock, heavy metal, e io gli ho fatto suonare il mandolino, cioè, chiaramente, no? Perché chiaramente, sì. Beh, cioè, l'artista cerca di portare il musicista in una certa direzione. Poi Corrado Pagliari mi ha suonato l'armonica proprio in quest'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato, che è assolutamente blues, come tu hai detto. Sì, è proprio l'immagine e anche blues. Lui non è un armonicista, cioè è più chitarrista. E perché è chitarrista. Hai sposato con strumenti differenti volutamente per creare, per dare una certa sensazione di curiosità del musicista stesso? Ma diciamo che la chitarra la suono già io e quindi cercavo altri tipi di sonorità poi da inserire nel disco. Solitamente invece nel live imbracciano le chitarre e sono anche abbastanza violenti nelle sonorità, devo dure a volte fermarli, placarli. Sì, devo. Poi c'è in due pezzi c'è il batterista che sono sempre con me, che è Mauro D'Antonio. In diversi pezzi ha suonato Maurizio Di Vitto il basso, che è anche un mio amico. Il fratello Francesco Di Vitto ha suonato le chitarre, la tastiera. Poi c'è stata la collaborazione di Stefano Barbati, che ha suonato il buzuki in un pezzo tradizionale, e Davide Bernaro alle percussioni. C'è stato il coinvolgimento di Michele Avolio in un canto di Lamenti. Michele Avoglio, il fondatore dei Discanti, sì, di cui parlavamo prima, citato prima, che ha fatto la controvoce e poi ha suonato anche il mandoloncello. Quindi, Max Di Ponzio, poi... Tante collaborazioni. Sì, tante collaborazioni. Proprio riuscire ad ottenere una collaborazione per me era un trionfo, quasi un trionfo. A me ho piacere di condividere la musica, perché... Anche se io riesco a suonare l'armonica o a suonare un altro tipo di strumento, preferisco magari che qualcun altro dia il suo apporto. Certo, una cosa molto molto positiva e interessante. Ecco, immaginiamo che una persona prenda un tuo CD, lo porti a casa, si siede, mette il tuo CD. Cosa ti piacerebbe trasmettergli a questa persona? Cosa ti piacerebbe ricevesse dal tuo CD? Ma soprattutto la genuinità, cioè l'essere verace, l'essere, cioè dire una verità, non essere surrogato, presentarlo così, in maniera diretta, come suonare adesso, certo, con la come radice. Facciamo stasera, sì, come stiamo facendo adesso. Dirgli io suono così e puoi trovare questo nel disco. Io sono così, sono un tipo tranquillo, sì, ho piacere di conoscerti, lo faccio attraverso anche la musica, quindi certo, anche attraverso il mio CD. Che è quello in pratica, Maurizio, che abbiamo avvertito un po' anche noi, sì, ascoltando questa... Sì, stasera abbiamo avvertito proprio questo. E a te, Maurizio, cosa ti ha colpito di Adriano? Il sapere spiegare con semplicità delle cose anche importanti, questo mi ha colpito. Ecco, questa è un'altra cosa che mi piace... sottolineare, raggiungere la semplicità anche nella composizione, non la banalità, che è una cosa molto diversa, ma raggiungere una certa semplicità attraverso la tecnica. A questo serve la tecnica, a comunicare qualcosa di estremamente semplice ma fatto con molto gusto. Sì, per semplicità non vuol dire banalità, assolutamente, no. È tutta un'altra cosa. Essere semplice non è mica facile, è più complicato essere, è più semplice fare il difficile, fare l'elaborato, che non essere semplice. Io spero di uscirci in qualche maniera. Secondo noi ci sei riuscito, vero Gigi? Sicuramente sì, sicuramente sì. Suoniamo, Maurizio, sì, suoniamo, CD, se non mi sbaglio, 25, giusto? Sì. Ecco, allora adesso andiamo a ascoltarci Anch'io voglio la mia auto blues, sì, che in pratica dà il titolo al tuo CD, e poi parleremo anche di questa canzone. Thank you. viaggiare a vapore su nuvole senza motore. Ma il cielo non è per tutti dipinto di blu, perché i bambini crescono davanti alla TV. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, abbiamo sentito questo pezzo, caro Adriano, un pezzo anche tantino elettrico. Qua Adriano suona tutto e questo è importante, è il Michael Oldfield di Scanno praticamente, ha suonato tutto quanto, e anche in questo caso anche la batteria. Ma io ho trovato questo, che le sonorità della batteria sono state inserite a proprio, cioè in modo perfetto, sembrava una batteria volutamente negli spazi giusti, e non è mica semplice, è una cosa abbastanza complicata riuscire a capire, a fare un progetto per un pezzo, perché sono tanti progetti, sono tanti pezzi, sono tanti progetti diversi. Ma il mio approccio con sei un tecnico vero e proprio, della creazione è stato sin da principio così, perché avevo dei multitraccia a nastro ancora, quindi avevo solo 4 tracce, e quindi, cioè, il mio vero obiettivo era creare canzoni, certo, e col passare del tempo chiaramente ho cambiato multitraccia, adesso ci sono multitraccia digitale, certo, sono computer, però ho avuto modo anche attraverso poi la gavetta in cantina, dove si fanno prove, con altri musicisti, certo, e si impara un po' le dinamiche varie che hanno i diversi strumenti all'interno di una band. I primi 3 dischi sono stati favoriti da un'associazione, adesso la citiamo questa associazione. Sì, l'associazione culturale della Foce di Scanno. Io partecipo attivamente a questa associazione, anche soprattutto il giornale. Mm-hmm. della voce che esce poi nel giornale locale con il quale viene allegato il CD. Tutti e quattro i CD sono usciti con il giornale della voce. Quindi è una piccola pubblicità, possiamo dire questo. Sì, sì, sicuramente. C'è chi aspetta il CD, che è affezionato sia al giornale e quindi anche alla musica del giornale. E, è sicuramente una bella esperienza, soprattutto in questo momento in cui in un piccolo paese dei giovani si incontrano, magari non preferiscono stare in un bar ad ubriacarsi. Sì, esattamente, ma fare una cosa di creativo, suonare, parlare, discutere. Stanno lì facendo una redazione di creare un giornale. Certo, è una bella cosa questa. Quindi cosa. Si guardano intorno, vedono cosa succede e cercano di capire anche loro come le dinamiche del paese e cercano di affrontare le varie problematiche. Certo, tu hai parlato delle dinamiche del paese, sei riuscito a portare questo messaggio anche al di fuori dell'Abruzzo, della regione, in alcuni momenti? Sì, in particolare, ecco, a parte questo evento in Belgio, sì, altrimenti è molto difficile. Perché è molto difficile? Per me ho avuto difficoltà. È difficile anche trovare degli spazi dove andare a suonare, è molto difficile, e quindi portare una band con sé diventa ancora più complicato. E spesso suoniamo all'interno della regione. Ho capito. In questo ultimo album, essendo stato io l'artefice, totalmente, allora mi muovo maggiormente, riesco a venire anche qui a Padova. Bene. Questo è l'album forse che ha la maggiore possibilità di andare oltre ai confini regionali. Non perché il dialetto non sia citato, però questa costruzione leggermente diversa, volutamente diversa probabilmente, l'idea è quella. Sì, poi le canzoni sono nate con la chitarra acustica, e quindi riesco a reggerle anche nel live. Esattamente. Poi tra l'altro nel live, nella presentazione del CD, faccio anche un po' di teatro e canzone. Ho capito, cioè. Con delle sorte di premesse prima di ogni canzone. Cioè spieghi praticamente. Sì, riprendo anche dei veri e propri monologhi che fanno da premessa, cioè lanciano il brano. Benissimo. Adesso che monologo fai per lanciare questo pezzo? Ecco, bravo. T'ho preso al balzo praticamente. E, il brano si chiama Solo frottole. E ho ripreso un monologo di un film, un film che si chiama Quinto Potere. Ah, un grande film. Un grande film del 1976. Esatto. Tra l'altro anno in cui sono nato. Perfetto. Che è un film stramaledettamente attuale. Esattamente. Perché parla dei poteri che ha la televisione. Esattamente. Nei nostri confronti e di come riesce a manipolare le nostre menti e il nostro inconscio. E in questo film praticamente c'è un conduttore televisivo che viene licenziato perché il suo programma non ha più audience. Esatto, come avviene oggi. Certamente, anche peggio oggi forse. Sì. Però nelle ultime puntate che gli rimangono a disposizione incomincia a sparlare dei poteri forti della stessa televisione e improvvisamente il programma ha dei grandi ascolti, diventa un programma di punta della televisione, dell'emittente televisiva. Cioè lui praticamente entra in studio, magari perché è stato a fare un giro in città sotto la pioggia, si toglie il suo impermeabile, accende una telecamera e va a braccio con un suo monologo. Io ho ripreso in particolare questo monologo in cui dice: la televisione non è la verità. La televisione non è la verità. La televisione è un maledetto parco dei divertimenti, un circo, un carnevale, una troupe viaggiante di acrobati, di cantastore, ballerini, giocalieri, cantanti, fenomeni da baraccone, giocatori di calcio. Il nostro unico mestiere è ammazzare la noia. Quindi se state cercando la verità, andate dal vostro Dio, andate dal vostro guru, andate dentro voi stessi, perché è solo lì che potrete trovare la verità. Noi non vi diremo la verità, non ve lo potremo mai dire la verità, perché noi vi diremo solo quello che voi volete sentire, mentendo spudoratamente, senza vergogna, eccetera, eccetera. Solo frottole. mi dicono ti devi sistemare per fare una vita regolare. Mi dicono devi votare quella persona, è tanto buona. Mi dicono che ha un Dio del giornale, che mi ha informato che ha ben pure il canale. Che strana che è difficile, ma non mi riesco a convincere. Più passo il tempo, più mi rendo conto che mi stiene a raccontare frottole. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Goia e non ti preoccupare, ci sta lo yogurt che ti può aiutare. Quante menzogne devo mangiare per una dieta salutare? Dicono che abbassa la voce, ci sta gente che sente. Che strana che è difficile, ma non mi riesco a convincere. Più passa il tempo, più mi rendo conto che mi stiene a raccontare frottole. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:40 minuti primi, ancora 20 minuti in compagnia di Adriano. Ed è inevitabile, classico, chiederti i progetti futuri. Progetti futuri, allora ultimamente mi sto impegnando in un live acustico in cui canto e rivisito alcune canzoni di cantautori italiani, quindi un percorso tra le canzoni appunto dei cantautori italiani. Quali cantautori? Ma i maggiori, De André, De Gregori, Guccini, Paolo Conte, Ivan Graziani, insomma. Sarà una cosa particolare, quindi non sarà proprio delle cover. Dei vecchi cantautori. E il duo acustico, quindi c'è una rivisitazione, altrimenti non ci sarebbe un piacere nel farlo. E siamo io e un altro chitarrista, che è Francesco Di Vitto, che suonerà il buzuki e la chitarra acustica. Io ho la chitarra acustica. Questo è uno dei progetti. Poi dal live ho una band che arriva anche a Sette Elementi, in cui facciamo il repertorio dei primi tre album dialettali, oppure sono con un'altra band chietina in cui facciamo solo blues in dialetto sempre. Ah, blues in dialetto, interessante. Blues questo. In dialetto, solo blues, e questa è un'altra band che, a cui sono molto affezionato, e siamo entrati subito in sintonia, che anche loro cantavano in dialetto e sono molto poi goliardici, ci divertiamo molto nel live. Benissimo. E poi c'è questa, questo spettacolo, anch'io voglio l'amiato blues, in cui alterno teatro e a canzoni, alle canzoni della, dell'album, che suono e canto con la chitarra acustica. E abbiamo sentito il monologo, sai, si vede che ami il teatro, quel monologo, monologo forte, monologo ironico, potente, Quinto Potere, sì. Un film che ha fatto storia, chiaramente. Sì, nello spettacolo poi c'è un mio monologo che anticipa poi il brano della canzone Bianco, e altri monologhi di Guccini, di Pennac, Daniel Pennac. Sì, Daniel Pennac. Anche un po' monologo brillante di Crozza. Ah. Insomma, diverse cose. A proposito del discorso dei citari, non so, non mi pare che tu abbia ancora scantato o suonato autore canta stasera. Ma è in scaletta per caso? Lo facciamo adesso? Appunto, volevo arrivare a quello, perché quella è una cosa molto interessante. Qui citi, cioè prendi punto di riferimento dei cantautori, ma il testo è tuo, è solo un punto di riferimento, un tuo amore. Sì, praticamente ho preso i versi dei cantautori, di alcune canzoni più famose, in particolare di quattro cantautori, cioè di Battisti, di André, di Guccini e di Gregori. De Gregori, sì. Praticamente ho preso questi versi, li ho accartocciati e li ho lanciati per aria, e ho raccolto le parole e ho fatto una nuova canzone. Mm-hmm. Un po' molto ironico, sì. Ho cercato di essere ironico, volendo dire una cosa che poi dico nel ritornello, cioè che tutte le tematiche sono state un po' toccate, no? Cioè, nell'enorme discografia della canzone italiana c'è poco da essere originali da questo punto di vista, cioè, le tematiche sono state toccate. Quello che ci resta a noi nuovi cantautori è quello di essere autentici e di essere soprattutto unici nel proporre nuove canzoni, nell'affrontare nuove tematiche. Con nuove avventure anche. Nuove avventure. Che sono nuove tematiche, fondamentalmente. Sì. Ognuno a modo suo, questo è l'importante. Certo, ognuno a modo suo. Autore canta allora, live, assolutamente. Okay. Seduto in quel caffè, io mi chiedevo dove la vita va a finire, quando è tempo di morire. Il cameriere mi suggerì, banalmente ridendo, lo scopriremo solo morendo. Dai diamanti no, non nasce niente, e l'amore durerà per sempre. Da dove nascono i fiori, Fabrizio me l'ha detto, ma bocca di rosa, questo non l'ha retto. Autore canta, nuovo cantautore, non è più tempo per scrivere. Autore canta, un vecchio cantautore, quello che c'era da dire l'hai già scritto te. La locomotiva veloce correva, ma se tu avessi previsto tutto questo per quattro soldi l'avresti. avresti fatto lo stesso. Buonanotte, buonanotte, generale. Buonanotte tra le stelle dietro la stazione. Non aver paura di tirare la donna cannone con le mani per le mani, io la parerò. Autore canta, un nuovo cantautore, non è più tempo per scrivere. Autore canta, un vecchio cantautore, quello che c'era da dire l'hai già scritto te. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Praticamente un medley. Sì, è un medley, ma è molto difficile da farsi. Diceva giustamente in questi secondi che sono che è finito il pezzo prima di andare in diretta, diceva giustamente Adriano. Perché suonare così è molto complesso, vero Adriano? Sì. Al di là è la tecnica, diciamo prima, quella del finger picking, in cui il pollice deve muoversi autonomamente, in autonomia rispetto alle altre, dita. Dita della mano. Quindi il pollice fa il basso. Esattamente. È come se suonassi due strumenti, cioè fa il basso e poi le altre dita fanno gli accordi. E qui ci devi cantare. In più io devo leggere perché non mi ricordo le parole. E se volete danzo. No, basta. No. Hai già recitato comunque. Cantato e recitato. In ogni caso, anche dal punto di vista del testo, sei riuscito a prendere le citazioni, a dare un senso compiuto alle citazioni. Non è una cosa. Cioè, hai studiato quanto fare un pezzo simile? Così per mia curiosità. È un nudo di getto. Beh, sono andato a rivedere qualche testo che già conoscevo. Cioè, certo, che conosciamo tutti, possiamo dire. Sì, infatti. Quello di Battisti poi tutti lo conoscono. per quello. E poi lo scopriremo solo morendo. Esatto, morendo. È leggermente cambiato il verso. C'è una parte che vorrei. Non si capisce perché. Dai diamanti non nasce niente quando parlo di De André. Sì, certo. In una sua frase celebre, verso celebre, in cui dice. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Benissimo. Questo è un concetto che è bellissimo. Cioè, non attacchiamoci alle cose materiali come i diamanti, non vestiamoci di diamanti, no? Però bisogna far capire pure, perché noto che alcune persone ascoltano ugualmente De André, ma poi gli piacciono pure quegli spot in televisione in cui dicono che un diamante è per sempre. Capito? C'è questa schizofrenia. Capito. Infatti poi dico, ma l'amore durerà per sempre. E questo niente, volevo ribadire questo concetto. Sì. Dunque adesso sono le 23:50. Penso abbiamo ancora un pezzo da far sentire dal disco o sbaglio? Sì, il canto di mietitura. Canto di mietitura. Vuoi presentare un momento, Adriano? Il canto di mietitura è uno di quei canti registrati da Diego Carpitella negli anni 70. Negli anni 70, e ho riarrangiato insieme a Max Di Ponzio, che suona il flauto e il sax, Stefano Barbati il buzuki greco, e Davide Bernaro le percussioni. E il testo era molto corto, quindi ho ripetuto all'interno della canzone due volte il testo, e c'è molto spazio alla musica. È stato creato un pezzo, devo dire, inedito. Se non sbaglio dura 5 minuti circa. Sì, qualcosa del genere. E c'è anche un pezzo finale, ci sono due intermezzi musicali e un pezzo finale veramente medio orientale, ce ne andiamo da tutt'altra parte. Benissimo. E vorrei e chi nasca luccia di 300 passa. E vorrebbe che la scaloccia si spezzesse. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ultimi minuti in compagnia di Adriano Tarullo. Allora, ci siamo fatti accompagnare da queste note quasi orientali, Maurizio. Sì, orientale con finale psichedelico, come piace a me particolarmente. Anni 70, c'era il flauto, mi ricordava qualcosa di Traffic, Chris Wood, che era un grandissimo musicista. E Traffic era un grande band guidato da Steve Winwood. Sono amori che non muoiono musicalmente mai, secondo me, continueranno sempre. Anch'io sono molto affezionato poi a quelle sonorità di quegli anni e me le porto dentro, anche se non le ho vissute direttamente. Tu sei nato nel 76, quindi eri... Sì, diciamo, sono stato concepito... Esattamente, con il rock, probabilmente, con queste sonorità. Allora, diamo qualche riferimento in chiusura ad Adriano per chi volesse acquistare il tuo CD, la tua musica e anche dei riferimenti internet. Allora, potete trovare tutto sul sito adrianotarullo.com, in cui ci sono tutti i riferimenti, tutti i video, le news, l'ascolto delle canzoni e anche l'interfaccia per comprare il CD oppure l'interfaccia per andare sui gli store digitali e comprare gli MP3 dell'album. Bene, e qualche live? Live prossimamente ci sarà il 21 novembre in provincia di Teramo, Colonnella. Faremo quel live acustico. Quello che mi parlavi prima. Sì, canteremo i cantautori italiani e farò anche qualche pezzo mio di questo album. Di questo magari farò autore canta. Ecco, che è molto bella, che si accompagna sicuramente a uno spettacolo sui cantautori italiani. Qualche secondo ancora per fare una domanda breve, risposta breve. Siamo proprio in chiusura, Maurizio. Continuerai sempre così, sicuramente. Potrai continuare, nonostante tutto, devi continuare così? Assolutamente. L'esigenza di scrivere canzoni è una questione personale, come dicevo, quindi continuerò a scrivere canzoni, a pubblicarle anche solo su internet, sul mio sito. Chi poi vorrà ascoltarle, le ascolterà. Certamente. Allora, un ringraziamento a Gino, l'ascoltautore. Certamente. Un grandissimo abbraccio da tutta Blu Radio Veneto. Un ringraziamento ad Alberto Prisco, che ha organizzato l'evento, la serata. Un grazie a Maurizio Calzavara. Un grazie a Gil. Sempre una piacevolissima compagnia. Un grazie agli amici, li vuoi ricordare te? Emanuele e Tiziana, che mi hanno accompagnato da Mantova fino a Padova stasera. E grazie a tutti voi di Blu Radio Veneto, ma soprattutto un grazie ad Adriano Tarullo, il suo CD Anch'io voglio la mia auto blues. Grazie Adriano. Chiudiamo con cosa, Adriano? Un pezzo live, 2 minuti, li hai? Sì, posso fare un strofa e ritornello, ma è una ballata. Vai. Si chiama Pianeta Stupido, Feroce e Banale. Domani sera con Agostino, ore 21, musical. Ciao Agostino, ciao a tutti, grazie. Il mio riverbero dove frammenti d'inchiostra affondano per annegare un sentimento urlato dove si bagna sì ma per riprender fiato. Ma poi riconosco l'eco delle tue parole che riondano dentro al muramento.